Charles Augustin de Saint-Beuve passa per il più grande critico letterario francese dell'Ottocento. Su Théophile Gautier, che è il noto autore, fra il tanto d'altro, del Capitan Fracassa, su Théophile Gautier, per esempio, ha scritto: di aspetto è abbastanza piacevole, abbastanza nobile, porta i capelli profumati e il gilet scarlatto, ha l'alito cattivo, disgustoso. Ora, avrebbe potuto fermarsi qui e forse non ci sarebbe stato magari nulla da ridire, ma Saint-Beuve ha proseguito. Nella sua poesia, così proprio nel senso di date queste premesse, no? Così nella sua poesia, attraverso tutti i colori e tutte le forme speciose, torna sempre a galla un piccolo soffio fetido che rovina l'insieme. Non contento ancora, Saint-Beuve ha insistito, e prosegue: gli articoli di Théophile Gautier sulla pittura hanno l'odore di tutta la cucina e, per così dire, di tutto l'untume dell'arte. Ora, non si creda che chi pontifica ancora oggi sulla letteratura e sulle arti disponga di strumenti critici poi molto più raffinati di così. Cerca semplicemente di aggiornare lo stile del proprio sprolocchio per non uscire da quel mercato da cui dipendono tutte intere le sue fortune. Di Saint-Beuve è il metodo che conta, metodo che consiste nel prendere un dato extraletterario, che so, i capelli, il panciotto, l'alito, e nel metaforizzarlo come chiave interpretativa del letterario. Tullio Kezic, critico cinematografico del Corriere della Sera, si chiedeva giusto ieri se è proprio vero che i critici non capiscono niente, e diceva anche che questa opinione è ormai diventata un luogo comune. Faceva il furbo per poi apparire ai suoi lettori tanto intelligente, tanto democratico e altrettanto disponibile a mettersi in discussione. Una sua recensione fresca finiva dicendo che il film di cui parlava è destinato a restare perché l'autore non ha voluto abbellire le cose e perché non è partito da tesi preconcette. E come fa a saperlo lui? Presumibilmente perché o ha parlato con l'autore medesimo e se n'è fidato, o perché ne ha letto qualche dichiarazione astuta fatta circolare dagli uffici stampa. Ciascuno di noi è libero di apprezzare o non apprezzare questo o quest'altro prodotto artistico, ma ciascuno di noi, critico incluso, dovrebbe ricordarsi che il suo giudizio dipende da criteri che, consapevoli o inconsapevoli che siano, sono suoi e soltanto suoi prima di essere ricondotti ad una matrice comune e condivisa. Questo lungo e faticoso tragitto, tuttavia, è percorso raramente, forse mai, perché la dichiarazione dei propri criteri di giudizio, laddove uno abbia la pazienza di volerla e saperla fare, è sentita come l'irreparabile perdita di un potere acquisito. Saint-Beuve, se interrogato, con ricche e articolate argomentazioni avrebbe sicuramente risposto che la poesia di Théophile Gautier era comunque fetida, anche se l'alito del suo autore fosse stato profumato.